FCC viene tanto denigrata, eppure c'erano antenne, delle eco antenne uguali, tipo la, o comunque concettualmente simili, sempre trafolate, sempre dimensioni contenuti entro i 5 metri, e ne facevano monumento perché erano delle eco antenne. Quando te la fa la Diamond molto simile, con la trafolata e la multibanda, non andrà più bene. Boh, vabbè. Certo, c'è sempre roba molto, molto infinitamente migliore, però lì il prezzo è veramente da una babbia. Te l'ho detto che è uno sport per ricchi. C'è un amico mio che ha apparati che costano. Boh, non ci voglio manco pensare. Se devi montare il parco antenne che ha, non lo so qui, e c'è anche il posto dove metterle, perché se non hai una casa così, o manco a fare. Perché okay, qualche radio da parte non l'ho vista, ma radio, allucinante. Ehi, qual era quello gigantesco, il 5000, gli Esu 5000, era una cosa che prendeva... Boh, una cosa allucinante, c'erano due o tre chemo da affiancati come larghezza, come se c'erano almeno due, una cosa folle, guarda. Il mio vicino di casa ce li ha quegli apparecchi lì. Ma Antonio ha chiuso Bombolo, non ha ripreso più. Si sarà addormito. No, è ora di cena, sarà andato a mangiare, e lo credo che è ora di cena, ma partita c'era oggi anche. C'è un'ora che ha giù mangiato. Lui a Bombolino. Cappa. E adesso mi offro un po', mi corico, perché sto qui ce l'ha col gioco. Sono con l'antenna più piccola. Io già ti ricevo lo stesso. Sì, nessun problema, il segnale 9 o 9 più. Fammi vedere, prova un po'. 1, 3, prova. 9, 5, Anto, in città non ci sta problema alcuno. Sono con la Storm, col portatile. Cappa. E non andava bene. Sì, benissimo, Anto, ha voglia. Io potrei mettere anche mezzo watt, mi. Una volta avevo regolato proprio meno, forse 100 milliwatt, avevo messo un watt più il riduttore di potenza, 100 milliwatt e mi sentivate in tutta Sassari. Ma sai cosa faccio adesso? Se mi faccio un attacco, me lo faccio passare bene qua, e uso con l'antenna piccola la sera, me lo scendo nel letto qua, il cavo... Se faccio tutta una cosa, a me non cazzo non so buono che ciò già va bene anche quella piccolina. Ti fai una prolunga col commutatore d'antenna, giri e così almeno ce l'hai giù. No, Natali, già ci arriva già il campo. Non ce n'è bisogno. No, qua nel letto. Il dinaruletto a me non mi devo rompere il ballo, la sera se è modulo così, se non ascolto. Ma c'è il portatile nel tuo... Eia! Ma c'è cato il segnale, sei 7. Già va bene. Sei quasi mi sembra una cosa guerrera, ci ti vedi. Davvero così basso? Qua è 9.5 tendente al 9.10, Luca. Vabbè, ora c'è più coso favorevole a te, da me è bassissimo. Ce l'ho sento, vattene a cuccia! Eia dai, già va, è pure sul tetto l'antenna. E a tu, se vuoi ti dica, boh. Qua è 9 più. Eia dai, da te sa 9 più 30 Natalia, andava. Ok dai, perché poi proprio in quella direzione mi questa antenna. La direzione in doia. Ma già va bene, dai, buonanotte a tutti, io sto un po' a letto e poi. K, buonas noches. Ciao ciao. Ciao Antu, buonanotte. Ciao Antonio, buonanotte. Mi sa che anch'io mi accendo la TV, magari mi guardo due tiri a palla. No, io due tiri a palla non mi rivoglio proprio vedere. Comunque mi ritiro per deliberare anche io, va? Va bene, ciao a tutti, buonanotte, ciao. Natali, voce, io non ti sento quasi. Ma lo sai perché non mi senti? Perché un amico mi ha detto che usciva troppo forte, allora ho dovuto diminuire. Bene, troppo no, dai, io poi, vabbè, tengo il volume non troppo alto per non disturbare mamma. È un amico mio che esce sempre così, amico, ma sto uscendo io, avrai capito chi è. Ah, vabbè, ma lui ha apparecchiature particolari e lì magari strappi, che ne so. Anche io. E c'ho il microfono che usa lui, perché se alzo, guarda, adesso scommetto che è più forte. No, vabbè, così è, non è rilassante, Natali. E io non lo so come esco perché non mi sono sentito, capito? Adesso l'ho rimesso come era poco fa. Oggi ero incicciato, mi ha fatto male il fresco di ieri, tra moto e coso ho preso un bel po' di freddo e oggi ero, poi ho preso un po' di aspirina, vitamina C, forse domani sarò operativo, se non è Covid dimmi. Vaghe, perché hai dormito con i piedi scalzi. Anzi, ero bello sepolto nelle coperte tipo mummia. Allora eri senza mutande, sicuramente. Ah, dormire a culo scoperto? No, che lì per il freddo davvero, poi pericoloso stare, non si sa mai. Oh signor, solo noi siamo rimasti, Marco, ragazzi. Guardati un po' di TV, Natali, anch'io faccio lo stesso adesso. Qualcosa troverò, dai, se no mi metto un film mio e buonanotte. Dai, ci sentiamo un altro giorno. Ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltoni e a quando capita, dai, ciao, buona serata. Ciao Marco, dai. Buonanotte a tutti, anche agli ascoltoni. Me ne passo in quel RT così delibero anch'io. Ciao a tutti. Buona Pasqua, buona Pasqua. Ciao, buon Pucu. Ciao, ciao. Ah, Antonio, c'eri ancora tu, ehi. Tu entri un po' tardi, è un casino, Antonè. Sono andato tardi perché sono andato a fare la spesa con Giovanna, poi è venuto Daniele a portarmi questo palacchino qua e sono entrato alle 8:15. Dopodiché sono cenato, adesso sono binocchi. Chi è il baracchino, Pompo? Di Daniele. Ah. Ecco, l'hai staccato adesso. Non lo sto usando. Eia, vabbè, io mi vado alla partita. Ciao ragazzi, buonanotte, alla prossima. Aspetta, Lu, chi gioca oggi? Inter-Liverpool. Ah, vabbè. No, Juve o morte, la Juve è il sole, tutte le altre non ci sono. No, soldi non me ne entrano, sto scherzando, Luca. ciao Popò, buonanotte, dai, chiudo, chiudo. Coretti, ciao. E io ciao, ci sentiamo. Buonanotte a te, buonanotte a tutti. Aspetta Antonio, una curiosità, quello che è il baracchino è omologato? No, come si chiama? Quello che c'avevo io. L'ho dato a Bombolino. L'ha 87 questo qui, però è un modello vecchio, c'ha i pulsantini rettangolari. All'anno 87, e in FM come va? Beh, se mi va lì bene, se va bene in AM, deve andare bene anche in FM, sta? Cioè, secondo me, dovrebbe uscire bene. Come ricezione, dico, in FM, quando senti le stazioni di fuori, com'è, fedele? Sì, beh, è fedele, sì. Non è che prima di chiudere facciamo una prova velox velocis? Qual è il problema? Vai in FM su questo canale, non c'è problema, da. Eccomi qua. Vedi un po' come va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Radio 5, chiara. Sì, anche tu sei in zona di maturazione, naturalmente lo fai nel campo più contenuto. Attendi solo un attimo, ora passa un attimo. E sono qua. Va bene, io chiudo. quello più esecutivo, là, mi accendo un po' di TV perché qua c'è freddo, non c'è riscaldamento qua, c'ho la stufa tra le due camere da letto in corridoio, e la zona calda è più camera da letto. Mi accendo la TV e poi ci sentiremo con calma, ok? Ciao, grazie al controllo, Antone, buona serata, buon tutto. Ciao anche del controllo, ciao. Ciao Marco.